Manuel Vázquez Montalbán è un attento osservatore di arredamenti e stili abitativi. Sa che la scelta di un insieme di oggetti disposti in uno spazio è strettamente dipendente dalle opinioni formatesi dalle opinioni che si vorrebbe formare. Oltre ad una storia personale o istituzionale, l'arredamento racconta forme di autorappresentazione e nella consapevolezza o nell'inconsapevolezza di chi l'ha architettato e di chi ci vive interagendo con gli altri, racconta anche piani di persuasione altrui. In un racconto pubblicato in Spagna già nell'87, Ne ho fatto un uomo, che oggi possiamo leggere in una versione italiana in Storie di padri e figli. Montalbán si sofferma sul modo con cui nelle banche spagnole dell'epoca in cui scriveva avessero cercato di rendere sacro il denaro mediante l'aiuto di architetti neoclassici e scultori della stessa tendenza. Avevano plasmato, dice Montalbán, avevano plasmato nelle carni grigie della pietra la muscolatura del lavoro che nutre di denaro le casse bancarie. Se la metafora gli prende un po' la mano, c'è troppa anatomia, troppa fisiologia per illuminare utilmente e innovativamente il rapporto fra denaro e banca. Se la metafora gli prende un po' la mano, è anche vero che Montalbán poi è abilissimo nel categorizzare la generalità dell'evento. In quelle architetture, in quelle scelte di arredamento, ci vede una estetica della solvibilità. Quando ero ragazzo la parola l'ho dovuta imparare negli ospedali. Reparto solvibili. Stava scritto a lettere cubitali sulla porta a vetri di un corridoio e l'handicap degli insolvibili, al di là del vetro, lo si poteva ricavare a occhio dal numero dei letti per camera, dalla presenza o assenza dei comodini relativi, dalla gentilezza degli infermieri o dalla maggiore densità per chilometro quadrato del personale medico. Le cure rivolte all'estetica della solvibilità nelle banche di qualche anno fa non costituivano di certo un investimento superfluo. Di banche fallite ne zeppa la storia del secolo scorso e dunque la presentazione di un apparato retorico che ne dimostrasse a priori la solidità serviva a garantire il cliente quanto ad educarlo al rispetto. I marmi, l'ampia scrivania del direttore, le piante ornamentali, i tappeti pesanti sui quali i passi divenivano improvvisamente silenziosi, i rituali timorosi escogitati per adire al sancta sanctorum delle cassette di sicurezza, erano tutte stazioni ove la genuflessione richiesta valorizzava vie più il denaro e i pallidi e untuosi ministri che ne officiavano i misteri. Come già nota Montalbán, quest'epoca si sgretolò gradualmente in nome della funzionalità. Open space, schermi di computer disseminati ovunque, più sorrisi, leggermente meno untuosi, ostentazione di familiarità e di amichevolezza, fino a che hai i soldi. Con la banca virtuale, quella solo online, o quella che ama raccontarsi solo online, con la banca virtuale sembrerebbe che si sia al capolinea. Non c'è più niente da togliere, ci sono soltanto algoritmi da eseguire e l'estetica della solvibilità ci se la gioca, se mai qualcuno ha ancora interesse a giocarsela, sulla grafica dell'interfaccia. E il discorso è chiaro, potrebbe essere esteso. La moltiplicazione del legno e finto legno in quelle che un tempo erano panetterie e oggi sono boutique dei derivati ingegnereschi del pane. Ecco, per esempio, questa moltiplicazione del legno potrebbe trovare riscontro in una più ampia estetica che potremmo chiamare l'estetica della genuinità. Studiavo l'ambiente realizzato nei giorni scorsi in un capannone di Brugherio sotto le direttive di Adriano Celentano. Innanzi agli occhi del pubblico, comodamente seduto in regolari poltroncine a gradinata, si apre o si chiude innanzitutto una grata metallica che vorrebbe designare l'accesso ad un carcere. A destra c'è un breve corso d'acqua con tanto di ponticello che porta ad un caffè con i tavolini fuori, ad un rigattiere. A sinistra c'è l'orchestra, due vecchiotte pompe di benzina, un muro più o meno in piedi, qualche scalino e un arco, poi dune, uno sfondo di dune da cui entrano gli ospiti. 86 metri di lunghezza per 37 metri di larghezza. L'illuminazione si ispira ai momenti di certe giornate. C'è l'ombra della sera, lo scuro della notte, come la solarità di un mattino sotto un cielo nitidamente blu. C'è il pubblico con i suoi applausi più o meno spontanei e più o meno correttamente distribuiti. Se canta lui è un subisso, se canta una sua corista non gliene frega niente a nessuno. E c'è l'orchestra. Quanto basta perché ciò che avviene in scena possa essere categorizzato genericamente come spettacolo e specificamente come show, ma è già chiaro dall'organizzazione dello spazio che lì dentro si cerca di istituire un circuito comunicazionale almeno parzialmente diverso. Il palcoscenico è andato estendendosi fino a richiedere 12 telecamere per rappresentarne le articolazioni. I giochi di luce da rivista, i ritmi narrativi, le convenzioni del genere o sono sparite o sono state sussunte in altre convenzioni, come quella dell'improvvisare una deroga dal convenuto in un dialogo di scena. Altre convenzioni cui il personaggio conduttore, cantante, attore, sermonista ha ormai abituato il suo pubblico. L'organizzazione di questo spazio e la sua stessa ampiezza inusitata racconta già parecchio di qualsiasi contenuto lo spazio poi sia chiamato ad accogliere. Le pompe di benzina hanno smesso da tempo di avere quell'aspetto. I navigli sono ridotti e ben diversamente ridotti da così. I muri, le case, i segni umani disseminati qua e là, compresi i rigattieri e le grate delle carceri, appartengono ad un passato eterogeneo, quanto peraltro privo di qualsiasi storicità. Celentano apparecchia la sua estetica della nostalgia e su questo fondamentale ingrediente cucina il proprio successo. Si appella a ben vedere a sensibilità non nobilissime del suo pubblico, perché poche pietanze ideologiche come la nostalgia sanno di reazione. Basterebbe chiedersi se i rapporti umani, all'epoca in cui avesse potuto esistere davvero un ragazzo della via Gluck, no? Se i rapporti umani all'epoca fossero davvero tanto diversi, tanto più puliti di quanto non siano oggi. Sarebbe bastato forse che all'epoca, oltre che cantare, o anziché cantare, quel ragazzo avesse dato un'occhiata in giro e si fosse dato le risposte giuste sul perché andavano così male le cose di quel mondo che lo avrebbe premiato in proporzione diretta alla superficialità delle sue critiche.